Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Una mia carissima amica diceva: se hai qualche problema, un po' di stomaco, fatti il canarino che viene su tutto. Ecco. Ti liberi. Chissà se questa similitudine, questa metafora può funzionare. Non so, c'è una certa analogia. Al nostro geologo. Benvenuti ascoltatori e ascoltatrici, questo è Mebius, i titoli e poi incominciamo. Shell Gas, il gas naturale che ha rivoluzionato l'economia energetica degli Stati Uniti. E in Europa? I giacimenti esistono, ma si discute ancora sulla realizzazione degli impianti e sugli effetti ambientali che produrrebbero. Emilia 3 è l'unica auto italiana che partecipa alla grande gara mondiale di motori solari. Il lato oscuro del digitale è il titolo di un saggio che analizza gli aspetti controversi della rete con un approccio propositivo. Eccoci qua. Sì, allora, potrebbe essere una similitudine con la digestione umana. No, vabbè. Sul pianeta Terra. In realtà parliamo di una fonte energetica molto importante che negli ultimi anni negli Stati Uniti ha proprio cambiato un po' anche l'economia. Parliamo di shale gas, che è un gas naturale, una sorta di metano molto ricco di idrogeno, che negli Stati Uniti davvero ha quasi ridotto di 4 volte il prezzo del gas, del biogas. Per il semplice fatto che si riesce ad estrarre con questo tipo di procedure del metano che in altro modo non si riuscirebbe. Sì, diciamo un biogas che rimane intrappolato in alcune rocce, gli scisti, poi chiederemo al geologo che adesso stiamo per introdurre, sì. Certo, viene estratto da queste appunto riserve sotterranee, intrappolato in queste rocce, con una modalità un po' particolare, per cui non basta trivellare come succede di solito, ma bisogna iniettare delle soluzioni di acqua, sabbia e soprattutto agenti chimici. A questo proposito farei, prima di introdurre il nostro ospite, il nostro geologo, farei sentire agli ascoltatori l'economista Edward Ludwig, che conosciamo abbastanza, sì, abbastanza noto, esperto di economia americana, che ai microfoni di Maurizio Melis spiegava questo. Questa nuova tecnica di trivellazione orizzontale, cosiddetto fracking, è stata sviluppata da una piccolissima ditta, fra l'altro, una piccola impresa in Houston, e hanno cominciato a applicarla, risultati fenomenali, perché hanno trovato, non è che si è trovato un nuovo gas, si è potuto estrarre molto più del gas, invece è solo la piccola frazione che va alla cupola di una struttura geologica, ma delle stesse rocce molto più gas e anche nuove rocce dove prima non si poteva fare niente. Il risultato è una rivoluzione della quantità di gas. Ci sono enormi numeri in giro, ma quello che è più importante è cosa è successo, i prezzi. Esatto. È andato da $8 è sceso fino a $2. $2 forse non è sostenibile, comunque si va da 8 a 3. In un mondo in cui il petrolio non diminuisce, ma invece aumenta di prezzo, comunque è un prezzo relativamente alto storicamente, il prezzo del gas crolla. Ecco, il prezzo del gas crolla. Io adesso, per tutto il dettaglio di su questo gas, che natura ha, come si estrae e soprattutto che problematica ha a livello ambientale, perché in Europa se ne parla e basta e ancora non si è mai provveduto ad estrarlo. Diamo il benvenuto a Gianvito Graziano, intanto buonasera. Buonasera a voi. Buonasera Graziano. Lei è presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi e ha anche partecipato a delle assemblee alla Federazione Europea dei Geologi proprio su questi temi. Non so, io direi andiamo con ordine, se ci racconta un pochino dal punto di vista geologico questo gas che è molto prezioso obiettivamente. Sì, e come si estrae? Sì, è molto prezioso, è contenuto in degli strati profondi, consideri non meno di 1500-2000 metri, solitamente fino a 4000-5000 metri all'incirca, ed è contenuto nelle argille, insomma delle argille scistose, che hanno una bassissima permeabilità, cioè una porosità molto elevata, ma comunque tale da non consentire a questo gas di venire fuori molto facilmente. Quindi è in qualche modo un gas intrappolato dentro questi terreni rocciosi. Allora non basta soltanto la classica perforazione petrolifera per poterlo tirarlo fuori, proprio perché le argille, essendo poco permeabili, non consentono a questi fluidi di uscire fuori facilmente, ma in qualche modo devono essere agevolati, cioè deve essere aumentata la permeabilità per far sì che questo gas possa essere veicolato. Per farlo bisogna fratturare, il fracking di cui si parlava è appunto una fratturazione idraulica di queste rocce, quindi viene immessa acqua, sostanzialmente acqua, ovviamente con additivi, con sabbia, a fortissime pressioni, in modo tale che questa roccia serbatoio dello shale gas si possa fratturare e in qualche modo veicolare attraverso delle fratture, appunto, che sono a minor permeabilità, scusi, a maggior permeabilità, si possa veicolare verso la superficie, verso poi dei pozzi di estrazione. Esatto. Ecco, ma un pozzo di questo genere per quanto funziona, cioè da gas con questo tipo di tecnica? Beh, diciamo che siamo ancora in una fase iniziale, sperimentale, perché sì, gli Stati Uniti hanno cominciato prima, in Europa siamo rispetto a loro sicuramente indietro, in alcuni paesi si sta facendo molta ricerca e si è cominciato soprattutto nel centro Europa, in Polonia in particolare. Bisogna vedere che la produttività, cioè quindi la roccia serbatoio, quanto è grande e quindi quanto gas contiene. Quanto gas può andare. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Ritorniamo ai nostri scavi di nuovo tipo per estrarre shale gas. Torniamo al nostro ospite Gian Vito Graziano, che è presidente, lo ricordiamo, del Consiglio Nazionale dei Geologi. Questi sono gas che, come ci diceva prima della pausa, ovviamente dipende dal giacimento, ma in realtà si ottiene una grande quantità di gas, molto più di quello che si ottiene con le trivellazioni, diciamo, più tradizionali. Sì, assolutamente sì. Sono, diciamo, in qualche modo due tecniche distinte: quello della fratturazione idraulica tradizionale della roccia per la ricerca petrolifera, quella è una tecnica ormai consolidata da tantissimi anni. Questa è una tecnica aggiuntiva, cioè a quella tecnologia si aggiunge la fratturazione ad alta pressione della roccia serbatoio. Da lì poi è consentito estrarre questo gas. Il dibattito però è molto acceso, perché bisogna capire a che prezzo, quindi non soltanto un prezzo di tipo economico, ma quali altri prezzi probabilmente dovremmo pagare per poter avere questo risultato. E io le chiedo qua di dirci qualcosa in relazione a due considerazioni / notizie, osservazioni che sono circolate proprio negli ultimi tempi. La prima, e cioè che si riesce a estrarre in modo produttivo questo gas da un pozzo per un tot di tempo che non è elevato, e quindi bisogna continuare a scavarne degli altri. Allora, in un paese come gli Stati Uniti ci sono grandi spazi, questo è fattibile. In Europa sembra che questo non sarebbe conveniente, perché certo siamo un continente tremendamente più abitato. E l'altra cosa è una ricerca che mi pare abbastanza approfondita, che è venuta fuori, è stata pubblicata anche da Nature, su un giacimento di shale gas nelle vicinanze di New York. Lì, da questa ricerca, sembrerebbe confermato che gli agenti chimici che vengono immessi sono finiti nella falda acquifera. Inquinano. Ci sono due temi da considerare. Uno è prettamente ambientale, è appunto l'inquinamento eventuale delle falde acquifere. Stiamo parlando di perforazioni che vanno a non meno di 1.500-2.000 metri, quindi attraversano un grossissimo pacco di strati entro i quali solitamente ci stanno le nostre riserve acquifere, negli Stati Uniti, ma così come in Italia e in qualunque altra parte del mondo. E lì quindi bisogna capire per quanto si possa isolare la falda attraverso le tubazioni che scendono giù, se una eventuale perdita provochi questo inquinamento. Uno. Due, immettendo acqua, ma non soltanto acqua, ma anche ovviamente degli, diciamo, agenti chimici che servono per agevolare il processo di fratturazione idraulica. Questa grossa pressione può creare una fratturazione a volte secondo scenari non perfettamente noti, e questo può far sì che questa miscela vada a finire nelle nostre falde. Quindi l'aspetto ambientale sicuramente è da considerare. Ma lì ci sono delle risposte, mi scusi, c'è qualche dato oppure siamo un po' nel buio? No, siamo un po' nel buio. Guardi, il tema, almeno in Europa, è in questo momento in una fase di grandissimo dibattimento. Ci sono alcuni paesi che lo hanno direttamente vietato, ci sono altri che lo hanno posto tra le possibilità. Tra questi, per esempio, è il Regno Unito, cioè gli inglesi hanno, come in qualche modo, aperto a questa possibilità rispetto ad altre nazioni. E il tema è molto dibattuto, perché non c'è una sperimentazione in atto, perlomeno non se ne conoscono ancora i risultati certi, e quindi molta preoccupazione a fronte di pochissimi risultati scientifici. Certo. Dobbiamo capire come andare avanti. Riguardo all'estensione invece, che diceva Federico? Sì, questo è un altro dei problemi, perché la capacità di recuperare gas è generalmente piuttosto bassa, quindi a fronte di un unico grande giacimento non serve soltanto un pozzo, ma servono più trivellazioni, quindi bisogna avere un raggio di pozzi in un'area piuttosto vasta per avere una economicità di questi progetti. E quindi a questo punto chiaramente sì, l'area vasta significa che questi problemi si vanno a espandere su aree appunto abbastanza grandi. Sì, c'è chi dice che in Italia noi non avremo fisicamente lo spazio. No, sembrerebbe di no, anche lì pochi dati, però se volessimo ragionare al contrario, no, in back analysis abbiamo visto che i grandi investimenti anche delle nostre grandi compagnie, Eni su tutte, sono andati in altre direzioni. Allora, è vero che in Italia c'è un grande movimento, chiamiamolo ambientalista, o comunque che sta attento ai temi dell'ambiente, insomma, quindi non nel senso degli ambientalisti classici, che magari non permette o permette dietro con tempi molto lunghi di poter fare determinate operazioni, però insomma il fatto che Eni stia investendo in Polonia evidentemente ritiene che qui non ci siano molti margini, e questo sembra anche da un punto di vista geologico in realtà insomma sembra corrispondere a un fatto esclusivamente di natura geologica. E un altro punto molto controverso è invece quello legato ai terremoti, cioè questo immissione di questi materiali e quindi questa fuoriuscita di materiale provocherebbe del vuoto, insomma lascerebbe degli spazi vuoti all'interno della roccia, e quindi potrebbe provocare delle scosse sismiche, cosa di cui si è parlato addirittura per il terremoto, la causa del terremoto in Emilia. Ecco, questo dal punto di vista geologico, secondo lei è possibile? Sapete qualcosa? Allora, le dico, è possibile, non posso dire che questo non sia possibile, seppure non posso pensare che ad ogni perforazione, diciamo, ad uso industriale debba necessariamente aumentare la sismicità di una certa area. Cerco di spiegarmi meglio. Generalmente le nostre zone sismogenetiche, almeno in Italia, quelle più importanti, quelli che danno luogo poi ai terremoti più forti, sono collocate a diversi chilometri di profondità, insomma 10 km di profondità, anche di più. Questo però ovviamente non significa che non ci siano anche delle faglie, delle strutture sismogenetiche a profondità meno elevate. Allora, il tema è quanto un'attività di questo genere può incidere sulla sismicità. Per quanto io immetta acqua ad alta pressione, non potrò mai mobilizzare le stesse energie che si mobilizzano durante un terremoto. Quindi questo, diciamo, le entità in gioco sono molto diverse. Dall'altra parte devo dire però che se vado a beccare una faglia che è già attiva e laddove i movimenti in qualche modo sono continui, perché noi abbiamo una sismicità non percepita, ma insomma che in Italia è continua, abbiamo migliaia e migliaia di terremoti all'anno, allora se io intercetto una di queste strutture potrei in qualche modo lubrificare, mettiamola così, determinate zone. Allora, il tema va affrontato. In America è un dato, è una constatazione, in effetti esiste già un caso di sismicità con magnitudo sprigionate pari a 5 Richter. Ora ci si chiede... Sprigionato a causa di questa attività? Molti dicono che lo è stato, perché quella zona non era sismicamente attiva, e da quando è iniziata quell'attività sembra che appunto si sia movimentata, sia iniziata una certa attività. È presto per definire un nesso di causa tra le due cose. Io credo che l'approccio col quale bisogna affrontare questi temi non deve essere di chiusura, né in un senso né in un altro. Vanno valutati i temi dell'ambiente, ovviamente quelli della sicurezza, quindi il problema della sismicità indotta, però non chiudere. Noi siamo abitualmente, tendiamo a chiudere a qualunque iniziativa, cioè il terremoto dell'Emilia Romagna in qualche modo è stata una svolta per la coscienza e per la consapevolezza del cittadino che viviamo in una zona sismica, però sono state dette anche tante castronerie, insomma, banalità, sì, e castronerie. Ecco. Allora, bisogna distinguere, bisogna secondo me dar modo alla scienza di fare il suo corso. Purtroppo siamo in un momento in cui questo non è fattibile perché siamo in recessione, però ecco, se le nostre università con la loro autorevolezza potessero studiare il fenomeno senza essere prezzolati da nessuno, io credo che sarebbe la migliore cosa buona. Certo. Ma senta, per come si può, non so, intuire, perché ovviamente ci vorrebbero delle ricerche, ma in Europa questo tipo di giacimenti ci sarebbero, sarebbero abbondanti, dovremmo porci il problema oppure ci mettiamo subito l'anima in sì, pace? Sì, nel senso che magari ci sono ovunque sul pianeta. Sì, ci sono ovunque, però ecco, in Europa sembrerebbe che un po' di rilancio sotto questo profilo ci sia. Infatti ho parlato della Polonia, ma insomma in questo momento c'è tutta la parte centrale dell'Europa, quindi Austria, Germania, la stessa Francia, insomma sembra che anche lì le prospettive ci siano, bisogna capire quali sono appunto in termini di giacimenti e quindi di economicità, e soprattutto capire a che prezzo, cioè dove andiamo a farlo, se siamo in una zona di grande interesse, ecco, per magari per la tutela della falda, obiettivamente mi porrei molti problemi prima di iniziare un'attività del genere. Certo. Ad esempio in Russia con quell'estensione potrebbe essere molto più praticabile. Se loro, diciamo, si ponessero il problema, a quel punto... Sì, io immagino tutte le grandi zone della Siberia fortemente, cioè poco abitate, fortemente disabitate, potrebbero avere meno problemi sotto questo punto di vista rispetto a diciamo territori così urbanizzati come il nostro. In Italia ho difficoltà a pensare qualcosa del genere perché certo, non riesco a vedere dove potremmo avere una zona, una grande estensione, un'area vasta senza centri abitati. Noi abbiamo riempito l'Italia di centri abitati, cosa diversa è geograficamente, ma devo dire anche da un punto di vista sismico, la Russia non ha ovviamente gli stessi problemi sismici che abbiamo noi, tutt'altro, infatti. Ha molto pochi. Questo tipo di scisti sono però presenti dappertutto, mi pare di capire. No, sono sì, ovviamente devono diciamo, si formano un po' come il petrolio, no? Ci sono determinate condizioni affinché questa roccia possa intrappolare questo gas, però ecco, insomma, la diffusione è molto estesa, diciamo, anche a macchia di leopardo, ma così come è interessata l'Europa, è interessato il Nord Africa, la stessa America Latina, quindi non soltanto gli Stati Uniti e il Canada, ma la stessa America Latina ha in Brasile delle estensioni molto elevate di argille che potrebbero, ovviamente uso il condizionale, potrebbero avere una buona resa sotto il profilo energetico. Si parla di estrazione del metano, ma con lo stesso sistema di fatto si tira su anche petrolio? La fratturazione delle rocce, la fratturazione idraulica delle rocce è una tecnologia ormai avanzata ed è quella che permette di estrarre il petrolio, perché insomma se non fratturassimo le rocce non potremmo tirarlo su, quindi è un po' lo stesso, solo che la differenza è che qui non dobbiamo né fare la perforazione, nel petrolio non si fa la perforazione orizzontale e soprattutto non si immette quest'acqua, ma parliamo di milioni di metri cubi, cioè per ogni pozzo si stima che occorrono qualcosa come 15-20 milioni di metri cubi di acqua pompata ad alta pressione. Ecco, non c'è neanche questo tipo di attività, si perfora e se si riesce a perforare direttamente il giacimento, il petrolio viene su o viene tirato su. Questa tecnica inizia con molte similitudini rispetto a quella del petrolio, poi va in un'altra direzione, che è appunto quella della perforazione orizzontale e soprattutto l'alta pressione dell'acqua. Grazie, buon lavoro. Grazie a voi, buona serata e buon lavoro a voi. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Emilia 3, 3 potrebbe essere il cognome di una signora che si chiama Emilia, mentre invece... No, invece è la terza macchina solare che viene presentata dall'Università di Bologna ed è l'unica macchina solare, appunto, l'auto solare, che parteciperà alla World Solar Challenge. Che c'è ogni anno. Sì, c'è ogni anno, mi sembra ogni due anni, ogni se due non sbaglio, in Australia. È sempre in Australia, sì, però. Sì, dal 6 al 13 di ottobre, ed è una grossa gara internazionale che dura qualcosa come 6 giorni, quindi molto dura. Diciamo quanti che... sono? Credo 3.000 chilometri, giù di lì, sì, adesso lo chiediamo. 3.010 chilometri, ecco, per infatti la precisione. Proviamo a parlare la nostra auto italiana, quella che gareggerà, che è stata qualche giorno fa presentata, pensa, a Maranello, che è, insomma, la patria di un'auto un pochino veloce, più famosa. Vabbè, insomma, parliamo con Marco Bianucci. Intanto buonasera, benvenuto. Buonasera a voi e agli ascoltatori. Buonasera Bianucci. Lei è ricercatore dell'Istituto di Scienze Marine di La Spezia, e ora spieghiamo perché, ecco, è un ricercatore insieme dell'Istituto di Scienze Marine. Vuoi introdurci magari come è fatta quest'auto, poi parliamo di tutte le applicazioni e del fatto che, insomma, questi pannelli solari sono talmente sofisticati per far andare questa macchina per 6 giorni ininterrottamente, che appunto hanno avuto bisogno della sua partecipazione, perché lei produce e progetta pannelli solari per barche a vela. Ecco, abbiamo un po' spiegato in maniera velocissima contorni. Il tutto. Tanto diamoci pure del tu, io sono abituato a lavorare con i giornalisti, sono contento se ci diamo del tu. Sì, hanno avuto bisogno del mio supporto, in realtà il supporto che è stato dato a questa auto è straordinario, è un'esperienza tutta italiana che non è assolutamente merito mio, ma è il frutto di una partnership tra imprese e istituzioni, soprattutto emiliane. Quella zona appunto dell'Italia particolarmente attiva, innovativa, che produce tecnologia, che ci è riconosciuta in tutto il mondo. E come fate, Emilia 3? Raccontaci un po' per noi, che magari la possiamo vedere, sì, adesso su internet, ma insomma non potremo vederla gareggiare. Ma allora, è una macchina che intanto se a vederla sembra poco una macchina, perché è un'ala più che una macchina. Infatti Emilia 3 partecipa all'Australian World Solar Challenger nella categoria quella un po' più estrema, cioè per le macchine più sofisticate, mentre poi esiste anche una categoria dedicata alle macchine che sembrano più vetture, mm-hmm, effettivamente. E quindi è come una ala con una superficie di circa 6 metri quadrati interamente ricoperta di celle fotovoltaiche. Però attenzione, perché quest'anno, anziché il regolamento prevede che le celle che si utilizzano devono essere celle in silicio cristallino, vuol dire sostanzialmente celle come quelle che si utilizzano nell'edilizia. Perché? Perché si vuol portare questa competizione estrema, però più vicina possibile, come ricadute alle applicazioni di tutti i giorni, perché è inutile andare a fare delle cose che poi magari si utilizzano solo in qualche satellite, perché i costi sono certo troppo alti. Quindi la competizione è diventata per noi in un certo senso particolarmente interessante, perché con budget diciamo tutto sommato limitati siamo riusciti a competere con multinazionali, perché vi partecipano, è la più importante gara al mondo di questo settore, quindi vi partecipano le più grandi multinazionali delle case del settore automobilistico, solare e quant'altro. E facendo, sfruttando il fatto che la tecnologia comunque esiste, sfruttando la buona volontà, abbiamo messo su una macchina che ha il meglio per quanto riguarda le celle, ma a livello assoluto ha il meglio per quanto riguarda la meccanica, perché poi la tecnologia meccanica che utilizziamo qui è quella che si esporta in tutto il mondo, magari in altre macchine che hanno budget milionari e che partecipano alla stessa competizione. A che velocità può andare? Ma le velocità ovviamente certo, sono basse, e la velocità è intorno ai 90-100 km orari, ma perché il regolamento ovviamente prevede dei vincoli molto stringenti, la superficie non deve essere più di 6 metri quadrati, noi pensate che in 6 metri quadrati siamo riusciti a mettere 1,3 kW di fotovoltaico, che vuol dire un'efficienza vicina al 22% su tutto il sistema, quindi è una cosa veramente estrema che deriva dal fatto che abbiamo messo in campo la Solvian Energie Alternative, che è una partnership, un'azienda italiana che lavora nel fotovoltaico avanzato, che è una partnership con SunPower, quindi abbiamo veramente il meglio in questo settore. Perché naturalmente questa è una gara soprattutto in cui si misura l'efficienza, quindi le dimensioni, certo, se uno va lì con, come dicevi tu prima, è una macchina ala, va lì con un'ala di 100 metri quadri, certo le cose possono tornare. Ti chiedo però, qual è l'efficienza particolare di questi pannelli solari, di questo diciamo fotovoltaico che avete installato? Che caratteristiche ha rispetto a quello che si vede in giro o di cui si sta parlando anche come ricerca? Dicevi che è molto avanzato? È molto avanzato perché pur utilizzando materiali che sono gli stessi che si usano per l'edilizia, quelli ordinari, perché questo è un vincolo del regolamento. È un vincolo del regolamento, sì. Giustamente, e ha un'efficienza particolarmente alta perché su tutto il sistema, non sul singolo pannello, su tutto il sistema, quindi comprese le perdite che si ha negli spazi tra una cella e l'altra, si ha un'efficienza intorno al 22%. È chiaro che la superficie è limitata dal regolamento perché, come dicevi tu prima, se un'auto avesse 100 metri quadrati di pannelli sarebbe abbastanza. Il gioco è semplice, certo. E quindi si vede questa ala di 6 metri quadrati ricoperta da celle e con efficienza assolutamente straordinaria. Ecco, ma questi pannelli che avete messo su, questa ricerca sui pannelli che avete fatto, è qualcosa che al momento non c'è in circolazione, insomma. In realtà questa è una tecnologia che già da tempo si utilizza nella nautica, che viene fuori da una collaborazione tra il CNR e Giovanni Soldini, e sono gli stessi pannelli che usa Giovanni Soldini sul suo Maserati. Da questa esperienza è nata poi questa Solbian Energie Alternative, che oggi ha portato sul mercato questa tecnologia innovativa che dà la possibilità di avere questi pannelli molto efficienti, quindi, leggeri. La particolarità di questi pannelli è proprio la estrema flessibilità che, come nella barca di Soldini, segue proprio le forme dell'imbarcazione, in questo caso seguirà l'abitacolo di Emilia 3. Esattamente, segue questa forma aerodinamica fatta dalla curva. Chiaramente l'aerodinamica è una componente fondamentale in questa competizione, quindi è la priorità massima e a cui si deve adattare tutto il resto. E il pannello flessibile Solbian ha questa particolarità di poterlo fare oltre all'estrema leggerezza, che in questo caso pure è importantissimo. Il fatto di continuare a cambiare direzione per un veicolo, ma anche per le imbarcazioni, porta alcuni pannelli ad essere completamente in ombra. Lì in quel caso come fate? Perché noi i tetti, diciamo, non si spostano, ma le imbarcazioni e le auto sì. Sì, nella nautica ovviamente è ancora più importante che in questo caso, perché c'è sempre l'albero, una vela, una drizza che fa ombra, però anche in questo caso dove la competizione è estrema, il cupolino ad esempio crea una zona d'ombra che varia continuamente. E qui sta una parte importante della tecnologia su cui tra l'altro l'Università di Bologna, il Dipartimento di Energia Elettrica ha lavorato molto e su cui avevamo lavorato molto anche noi, che consiste nel cercare là dove il pannello è in ombra, di non farlo interferire con il resto degli altri pannelli, in quanto strozzerebbe la corrente degli altri. E qui c'è proprio un sistema di elettronica che fa attivare diodi o meno e comunque massimizza l'output energetico, che è abbastanza sofisticato, che però oggi appunto è stato trasferito sul mercato grazie a queste esperienze che si sono fatte anche nella nautica. Cioè in qualche modo non li fa lavorare in serie come succede per i tetti ad esempio, ma ogni pannellino ha un'elettronica a sé, possiamo semplificarla, ecco, un po' così? Brava, non volevo entrare in questo dettaglio, però però invece è una differenza importante, è così, certo. È esattamente così. Senti, ricordiamo in generale, per chi non seguisse queste cose, il veicolo è guidato da una persona, no? Se non sbaglio, una sola persona. E si corre da in che orario del giorno? Quanto lungo questo orario? Perché mi pare proprio che si vada fin quasi al tramonto. Che c'è il sole. Ah sì, si va fino a quando è praticamente buio, ma infatti importantissimo oltre al sistema fotovoltaico è anche il pacco batterie, tant'è che spesso vince chi ha la combinazione vincente tra fotovoltaico e batterie. Sì, sì. Quest'anno abbiamo un pacco batterie che pensiamo di essere, che sia veramente competitivo, perché chiaramente il fotovoltaico deve produrre più di quello che serve durante il massimo dell'insolazione e questa produzione eccessiva deve essere accumulata per quando il sole cala o non c'è per niente. Quindi pensate di vincere, dai Marco Didi? Dai, sì, pensate di vincere. Beh, sarebbe... no, diciamo, non lo diciamo intanto che... Per scaramanzia, ma noi scienziati non siamo scaramantici. Per scaramanzia, ovviamente. In più la competizione è fatta, diciamo, con tali giganti che... Diciamo che speriamo di lottare alla pari, ecco. Speriamo di lottare alla pari, il team sicuramente è non preparato. Ha niente da invidiare rispetto a quello dei nostri colleghi partners più blasonati che parteciperanno a questa competizione. E allora insomma in bocca al lupo. Grazie, grazie mille. Ci risentiamo poi. Sì, certo. Dovete farci sapere com'è andato. Sì, e poi tutto. In queste gare ci sono sempre delle cose sulle quali bisogna intervenire al volo, no? C'è tutto un... Esattamente, guarda, e qui c'è una componente importantissima che è quella umana, c'è la ditta che poi è quella che trascina il tutto, della Graffite Compositi di Castel San Pietro, dove dopo l'orario di lavoro si continua ininterrottamente a occuparci di Emilia, che partirà, andrà in Australia e seguirà tutto l'evento e sarà pronta a intervenire per qualsiasi cosa che viene fuori. E quindi è un lavoro di squadra veramente impegnativo, ben al di là anche di quello di ricerca e tecnologico che si può pensare. Bravi, bravi, facciamo il tifo per voi allora. Grazie. Grazie, grazie, buon lavoro. Grazie mille. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Qui con me questa sera ho Andrea Granelli. Buonasera Andrea. Buonasera. Ci diamo del tu perché insomma fai un sacco di comunicazione giornalistica su questioni che riguardano rete, smart city e dintorni, e però tu sei un analista di questo tipo di fenomeni. Però è appena uscito un tuo libro intitolato Il lato oscuro del digitale, edito da Franco Angeli, e allora io penso che sia giusto, Andrea, se dedichiamo, perché insomma è corretto presentarti correttamente al pubblico che ti può acquistare, se riflettiamo un attimo sul titolo, che potrebbe presentarti come qualcuno che incomincia, no, che vuole introdurre grandi sospetti sulla rete e quindi appartenere a quella categoria di analisti che sono quelli che sono anche un po' contro il citofono dal punto di vista, quindi atecnologici totali. Invece tu hai scelto questo titolo forte, però poi, già nella premessa, insomma, fai delle differenze importanti. Dedichiamo un minuto a questo aspetto perché sennò ci potrebbe essere un atteggiamento sbagliato a priori rispetto al tuo testo. Certo, ma io diciamo vengo da una storia dove sono dedicato direttamente al digitale, ho partecipato alla prima stagione di Internet, ho creato Team Internet, ho fatto l'amministratore delegato, quindi amo la tecnologia digitale, che è una tecnologia potente, articolata e che può fare molte cose buone, ma essendo una tecnologia complessa che richiede anche competenze non solo tecniche, ma anche comprensione degli impatti trasformativi che la tecnologia, ecco io penso che sia venuto il momento di avere il coraggio di parlare anche del cosiddetto lato oscuro che convive col sunny side, col lato solare della tecnologia, perché questo lato esiste, sta crescendo molto proprio perché è poco frequentato e se non compreso, perché va compreso per dominarlo, rischia poi di generare fenomeni opposti. A me ha colpito per esempio il fenomeno del datagate, fenomeno che chi si occupa di tecnologia non lo considerava, come dire, impossibile, no? Certamente non positivo, ma non si poteva cadere dal pero per il fatto che fosse possibile controllare, e in un giorno sui giornali la parola big data da frase positiva e luminosa è diventata il grande problema. Sì. Quindi tu ti inserisci in quella grande tipica costante, no, diatriba fra gli apocalittici da una parte e gli integrati, no? E quindi lo scontro tra bene e male, ti metti assolutamente al centro e cerchi di vedere le cose buone e le cose cattive. Ecco, però mi sembra di capire dal tuo testo che non è che tu tracci, questa è una differenza importante, verticalmente le cose, nel senso che abbiamo questi aspetti che sono tutti oscuri, abbiamo questi che sono tutti buoni, tu fai vedere che è un continuo intreccio, no? Esatto, è un continuo intreccio perché in ogni cosa c'è del bene e del male, ecco. Diciamo così, ci vuole discernimento, come direbbero i gesuiti, proprio perché la tecnologia, ribadisco, è molto complicata, è molto articolata, è trasformativa, cioè la tecnologia digitale sta trasformando il nostro modo di lavorare, divertirci, ricordare, raccontarci, pensare al fenomeno religioso, fare sesso, tocca tutto, e quindi non possiamo banalizzarla. Ora, io ho voluto usare questo titolo forte perché nella contrapposizione che tu suggerisci, diciamo, di Umberto Eco tra Apocalisse e Integrati, mi è sembrato che fino a poco tempo fa la voce fondamentale erano proprio solamente gli Integrati. Sì. Gli Apocalittici erano poco presenti nel dibattito. Sì. E allora io ho preferito incominciare a porre il problema per evitare poi che la nascita degli Apocalittici rendesse il fenomeno improvvisamente virale, cioè girasse d'amore a odio improvvisamente, sì, troppo pericoloso. Dallo scontro frontale vengono fuori solo macerie. Tu puoi darci qualche esempio, appunto, di tipo critico, secondo te, che può allo stesso tempo, come dire, farci riflettere su come si potrebbero fare diversamente le cose usando la rete? I fenomeni ce ne sono moltissimi, da quelli, come dire, meno frequentati. Per esempio il consumo energetico, è uscito un dato che dimostra che l'anno scorso i data center, solo i data center di Internet, hanno consumato 30 miliardi di watt, 30 centrali nucleari, e se noi confrontiamo questo dato col fatto che si stima che grosso modo il 90% della posta elettronica è considerata spam, quindi non desiderata, ci sono diversi livelli, dalla posta inutile ai virus, alla posta commerciale, quella pornografica, la domanda è: questa grande dimensione energetica, 30 centrali nucleari, di cui una parte rilevante gestisce anche la posta elettronica, chi la paga? Sì. Questo è un esempio. Certo. Oppure la posta elettronica stessa, alcune aziende, alcune, una in particolare molto grande e importante, Atos, il più grande sistema integrato europeo, ha deciso di togliere la posta elettronica dall'azienda perché il suo uso non meditato consuma il tempo dei manager, dei professional, 20% del tempo dedicato spesso a rispondere a posta inutile. Ecco, qui Andrea, consentimi di dire, per esempio, perché poi su questi temi dobbiamo essere tutti sensibili, ecco, per esempio, una pratica che dovrebbe scomparire è quella che uno di fronte all'altro al lavoro si spediscano del materiale per email, insomma, facciamo un po' di fatica in più, usiamo una chiavetta, perché sennò certamente stressiamo qualcosa che genera una non sostenibilità. Questo è fondamentale, ma soprattutto c'è questa pratica che, siccome è facile mettere le persone in conoscenza, costruiscono fiumi di persone che ricevono materiale senza averne effettivamente il bisogno. Delle volte la posta elettronica si usa in maniera aggressiva, due persone litigano e mettono in copia conoscenza il loro capo per dire quello è cattivo, quindi ci sono delle pratiche che di fatto non sono state inserite all'interno di un pensiero organizzativo. Questo, se vuoi, è un po' il mio punto. Cioè, io penso che il digitale, anche la posta elettronica, i social media, il cosiddetto smart work, sia una tecnologia potente, ma non possa essere autoregolamentata. Non possiamo chiedere ai singoli lavoratori, professional, manager, di fare una sorta di fai da te del digitale, perché l'uso è come se fosse una tecnologia, un po' l'effetto farfalla, una tecnologia molto potente, dove basta una piccola variazione non positiva che si riflette in maniera poi molto negativa nei comportamenti, assorbendo tempo, creando cose inutili, non focalizzandoci sulle cose rilevanti. E quindi bisogna riportare il pensiero, come dicevi tu, alla relazione diretta, a dire perché comunico, che cosa mi aspetto che accada, questo dato è veramente utile, voglio che tu lo rielabori. Ecco, domande più strategiche, non intanto butto e poi vediamo, tanto non costa nulla. Sei d'accordo su questa cosa che a me sembra si possa dire, e cioè quando si lavora male con una tecnologia, spesso e volentieri quello che viene fuori è che tiriamo fuori dalla tecnologia molto meno in termini di qualità e quantità di quello che ci potrebbe dare. Quindi un uso, come dire, troppo entusiasta e troppo appiccicato alla tecnologia stessa, in fondo ci fa tirar fuori meno, no? Sì, io mi considero un entusiasta della tecnologia. Direi un uso superficiale, un uso dove noi attribuiamo alla tecnologia la capacità, lei, di decidere cosa serve. Esatto. La tecnologia è strumento, non può essere fine. Sì. Invece oggi è usata come fine. Le smart city sono smart per il fatto che hanno la tecnologia, l'adottano. Sì. Poi non guardiamo se poi questo ha migliorato la vita del cittadino, ha reso le aziende che ci nascono più robuste. No, la gara è: ho più larga banda, io ho vinto questo bando, io ho ridotto di tre punti percentuali la CO2 e sono più smart. Ecco, non è vero, la tecnologia è uno strumento. Deve ritornare ad essere strumento. Io chiuderei qui avvisando però una cosa magnifica che mi ha veramente divertito molto. E all'inizio del tuo libro ci sarà sono 3-4 pagine intitolate Sorgenti che illuminano la riflessione sulla tecnica, e sei riuscito a raccogliere una serie di frasi, una contraria all'altra, una completamente diversa all'altra, da Edgar Morin a Nietzsche a Eric Fromm, che hanno tutte a che vedere con il futuro, disegnare il futuro, le tecnologie, insomma un sacco di cose che riguardano anche i nostri comportamenti. C'è dentro anche Marshall McLuhan, ma anche Eliot, insomma è veramente una raccolta molto entusiasmante, divertente direi, di un sacco di cose. Beh, è una specie di sintesi generale di tutto quello che noi combiniamo, espressioni su quello che noi combiniamo come specie, no? Esatto, sintesi non sintetizzabile, perché no, sono volutamente spunti che generano détournement, come dicono i francesi, no? Una sorta di spiazzamento, solo per ricordarci che la tecnica è un fenomeno complesso che deve essere trattato, la tecnologia, i suoi impatti sulla società, con una capacità e un approccio anche un po' umile. E quindi io penso che i polarismi che tu citavi all'inizio, è tutta una meraviglia, gli diamo il premio Nobel, oppure il grande male, no? Non va bene. No. Le polarizzazioni uccidono l'uomo. L'uomo ha bisogno, in media stat virtus, come dicevano i latini, no? Nel mezzo sta la verità, sta la qualità, e quindi per arrivare a questa posizione mediana bisogna capire sia le dimensioni positive, problematiche, potenzianti, e gli aspetti problematici. Andrea Granelli, Il lato oscuro del digitale, edito da Franco Angeli, lo trovate in libreria. Grazie Andrea, buon lavoro. Grazie molte. Ma quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi prima di andare a Genova. Quella faccia un po' così è frutto della genetica. Si potrebbe rispondere così a Paolo Conte, e per la precisione è frutto di 5 geni che sarebbero responsabili dei tratti più distintivi del nostro volto. Questo è quanto afferma Manfred Kaiser, ricercatore dell'Università di Rotterdam. Il team da lui coordinato ha studiato il viso di 5.388 soggetti di origine europea, identificando i 5 geni che sembrano giocare un ruolo fondamentale nella determinazione dei tratti fenotipici distintivi, come ad esempio la forma del naso o la posizione degli occhi. Dopo aver dimostrato l'ereditarietà di questi caratteri, è stata effettuata una seconda analisi su 79 coppie di gemelli monozigoti e 90 coppie di gemelli eterozigoti, ed è stato stimato il tasso di eredità di questi singoli tratti. Così sono stati identificati i 5 geni. La scoperta, spiega Kaiser, è il primo eccitante passo verso la comprensione della genetica, che controlla la morfologia umana del viso, e forse un giorno potremo ricostruire il volto di una persona esclusivamente sulla base del suo DNA, di una frazione del suo DNA, un'opportunità molto interessante per la scienza forense e per la scienza investigativa. D'altra parte già riusciamo a predire con una certa accuratezza il colore degli occhi e dei capelli partendo da una piccola traccia di DNA. E ora rimaniamo sulla cronaca genetica, perché vorrei segnalarvi che finalmente abbiamo ottenuto e codificato il DNA completo dell'ostrica. Pensate forse che questa sia una notizia futile, priva di importanza? Vi sbagliate, perché avere la carta d'identità di questo mollusco potrebbe addirittura darci informazioni preziose sui cambiamenti climatici del nostro pianeta. È così. Partiamo dal presupposto che il lavoro di ricerca non è mai inutile, ma in questo caso lo studio dei ricercatori dell'Accademia delle Scienze Cinese è stato addirittura pubblicato su Nature, proprio per la sua importanza. L'ostrica, originaria dell'Asia del Nord, ha colonizzato praticamente tutto il mondo ed è una delle specie più pregiate nel settore dell'acquacoltura. In natura questi molluschi bivalvi hanno un ruolo molto importante nella costruzione delle scogliere e anche, essendo molluschi filtratori, svolgono un ruolo ecologico fondamentale negli estuari e lungo le coste. Lo studio sopracitato ha sequenziato in particolare l'ostrica del Pacifico, Crassostrea gigas, e di queste ostriche, tanto per darvi un'idea, solo in Francia ne vengono coltivate circa 4 milioni di tonnellate l'anno. il DNA ci ha rivelato che questo bivalve ha molti geni che conferiscono una capacità straordinaria di adattamento e una straordinaria capacità di far fronte agli stress ambientali, come ad esempio le variazioni di temperatura, di salinità, ma anche all'inquinamento, soprattutto quello da metallo pesante. È per questo che tutte le indicazioni che ci forniscono questi bivalvi sono preziose per lo studio dell'ambiente marino e dei relativi cambiamenti climatici. Agosto è finito, ma per noi questo significa semplicemente che arriva settembre. Noi saremo sempre qua fra 7 giorni. Buona settimana a tutti e a tutte.